fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo finalmente, partita la registrazione, ma cosa dico la registrazione? La diretta radio, ciao ragazze! Ciao! E siamo qui con le famosissime... Spice Girl, eh? Ma eravate mica le puledre di Travagliato una volta? Cavolo, insomma, le Spice Girl adesso. No, no, le puledre di Travagliato, fate un saluto stile... Sono imbizzarrite stasera, ragazzi, sono imbizzarrite, dovete venire al convento di Leonato. Auguri Cri! Oh, ragazze, giustamente è il compleanno della Cri. Sì. La Cri è commossa, tra l'altro, non so se vedete. È commossa dal vino. Cri, non parla più, eh? Questo. Ok. Questo. Sono veramente commossa perché stasera sono riuscita a riunire tutte le mie amiche. Tra un bicchiere e l'altro. E lei ha detto una frase. Sì, ha detto una frase, però. Ha detto una frase. Ce l'ha fatta. Brava Cri! Puoi dire qualcos'altro alle tue amiche, Cri? Vi voglio bene. Anche a lui. No, non è il mio regalo. Ecco, ricordiamo che la Cri si sta lamentando per il regalo, ragazze, siete state un po' avare, ecco, giusto? Cioè, li avete... Avete scelto. Quella, allora, Cri, me le chiami, me le fai presentare. Vi presentate al microfono? Certo, allora le presento io. Dai Laura, non farla timida. Laura. Jenny. Simona. Marica. Vanessa. Barbara. Cristina. È vero che me lo mette nell'occhio il microfono. Cioè, quella quando ride spegne le luci, tra l'altro. Che ce l'hai dietro la schiena. No, c'era. Che, vai via? No, ce l'avevi lì dietro a testa a sedere? Ecco, sì. Sì, quando ridevi, tra l'altro. A intermittenza. No. Attenzione, a intermittenza. Allora, ricordiamo che stasera è il compleanno della Cri. Stasera è pericolosissima, che fantastica, fantastica. 41 anni, Cri. Certo. E non sentirli? Non senti. E non dimostrarli, tra l'altro, cioè... Zero proprio, giusto? Allora, ragazze, a turno, dite a turno al microfono una cosa positiva della Cri. No, negativa. Un cazzo, non dite niente al microfono a turno. Cri, sei bellissima, solarissima. Poi, nient'altro? Che c'hai? È anche una rompiscatola quando vuole. Quando vuole, è tremenda. Quando vuole, è tremenda. È tremenda, poi cos'altro ragazze? Potrei dire tantissime cose dopo 40 anni che la conosco. A 40 però, anni che la conosci? No dai, 35 facciamolo. Dalla prima elementare. Cioè, dalla prima elementare, ok, quindi... Sì, tantissimi pregi e tantissimi difetti, ma le voglio un sacco di bene. Quella... Questa che amica è, te la ricordi? La riconosci? Certo. Non l'ho mai vista. Questa non l'ho mai vista. È la mia amica dell'infanzia, si chiama Jenny, è stata anche la mia testimone di nozze. Brava Jenny. Auguri, oggi è e buon anniversario. Ah, il giorno del matrimonio, cioè il compleanno. Compleanno e anniversario. Ah, colpo di scena, caramba, che sorpresa. Quindi... Tra l'altro, ricordiamo che la Cristina vende ombrelli a Travagliato. Quindi è il suo, lei è la ricordiamo per i suoi gesti, Tanti anni fa ha salutato stile regista. Voi si scrivete buon anniversario. Allora, attenzione, è un po' contorta, ecco. Ma quanti anni sono il matrimonio? 18! Mi chiedono, ragazzi. Cos'è 18 anni di matrimonio? 18 anni. Ti sei sposata all'asilo praticamente? Sì. Cioè, fantastico, il matrimonio quello finto che facevi l'asilo, tipo con l'amichetto. Esatto. Così, che storia. Comunque ragazze, ricordiamo Cristina per i suoi gesti famosi del convento. Ecco, certo. Questo è quello attuale del ce lo rifai l'ombrello. Poi c'è il famoso saluto, quello che è rimasto nella storia. Questo è rimasto nella storia. Quando ve lo ricordate il vestito da Non c'erano tutte? Chi c'era? Nessuna? No, nessuna di loro. No. Sei venuta da sola? No, sempre con... C'è stato un compleanno dove ti eri vestita da regina praticamente. Di stile... Vabbè, andate a vedere le foto che ve le farà vedere perché... Era qui? No, aveva un... Cos'era? Un Ma no, era un vestito verde con tutti i fiorellini, col collo alla coreana, e lui mi ha soprannominato la regina. C'aveva un collo così. Veramente coperto. Cioè, era una cosa fuori dal tempo, praticamente. Stasera. Stasera. Al collo. È aggressivo. Stasera è aggressivo. Eh sì, è il compleanno e quella si è commossa. Sei commossa. Dai, ecco. Va bene. È bello. Qual tempo sono. Che fai? Vai via. Ah, così, di colpo. Colpo di scena. Cioè, non è neanche finita l'intervista, però. Così una va via così. Va bene, ragazzi, siamo in tantissime. Si fa fatica a parlare, perché però non si fa fatica a fare i complimenti e gli auguri, vero? No, facciamo tanti auguri a Cree. Buon compleanno, Creed, a tutte le tue amiche. Grazie. Abbiamo finito? Calma. La diretta è finita, andiamo.